E parli tu di morte? Ascolta, il tempo stringe. Fronte già su te la folgore tremenda. Oggi non sei più rivale del re, il fiero agitator delle fiandre. Sania potrà prestar fe. Le prove son tremende, i fogli tuoi trovati il mio poter. Della ribellion testimoni son chiari, e questo capolce apprezza ne so già. E ando tutta me, non ti serva la fiandra, ti serva la grand'opera, tu la dovrai compire. Un uomo il secolo d'or rinascer tu farai, regnare tu dovevi ed io morir per te. Ehi, la morte è per chi vuoi? Per me la vendetta del re tardare non potea.